Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Non è che la Ferrari hanno la bacchetta magica che di colpo Leclerc inizierà a fare miracoli e a compensare il gap che ha la macchina rispetto alla concorrenza. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. The big breaking news is that Manchester City's two-season European ban has been lifted by the Court of Arbitration. What they say now is that Manchester City have contravened Article 56 of the club licensing and financial fair play rules. Manchester City should pay a fine of 10 million euros to UEFA. So if you're a Manchester City supporter, fantastic news for you. If you're Pep Guardiola, fantastic news for you. If you're a Manchester City player, fantastic news. Sì, non so quanto sia fantastica la notizia per l'UEFA, che è stata bocciata dal TAS, quindi Manchester City riammesso alle coppe, cancellata carta straccia quella sentenza di squalifica per 2 anni, i prossimi due dall'Europa, addirittura ridotta la sanzione da 30 a 10 milioni per non aver collaborato a delle indagini che sono state un pasticcio mediatico assoluto. Pierluigi Pardo, Radio Twitta. Radio Twitta è su questo ed è su... Aspetta che ti sento, Radio Twitterai tra un attimo. Saluto dall'Inghilterra Stefano Boldrini. Ciao Stefano. Buongiorno a tutti. Ciao, senti, questa è una vittoria del City? Possiamo dire che è anche una sconfitta dell'UEFA? Sì, diciamo che è la vittoria più importante della stagione del City ed è una sconfitta dell'UEFA e probabilmente anche pone degli interrogativi sulla questione del fair play finanziario. Sì, che fino adesso si è dimostrato una rete per pesci piccoli in cui sono finite delle squadre, insomma, squadre di non di grande palmarès né di grandi ambizioni, Galatasaray, Dnipro, posso fare vari nomi, Partizan Belgrado, Stella Rossa, eccetera, ma le grandi non sono mai, lasciamo stare il caso del Milan che è un po' particolare, finiti in questa sacca, Stefano. Ma penso che sia è la storia del mondo, quando ti metti contro i potenti è sempre molto difficile, è molto più facile alzare la voce appunto con altre squadre che con il Manchester City e credo che poi anche la situazione di crisi economica mondiale prodotta dal Covid abbia un piccolo peso su questa vicenda. Tra l'altro la sentenza dell'UEFA fu emessa il 14 febbraio, quindi esattamente 5 mesi fa, quando il Covid stava per esplodere, ma ancora insomma non era chiaro quello che sarebbe accaduto e soprattutto la portata economica. Oggi credo che anche questo in piccola parte però abbia influito. Perdere per 2 anni dalle coppe un colosso come quello rappresentato da Manchester City, insomma, significava qualcosa. Stefano, semplicemente non ha senso. Pierluigi, so che sei... Spero che tenga qua la linea. Sono sempre molto perplesso sulle condizioni telefoniche italiane, ma comunque al di là di questo, il Radio Twitter era proprio su questo, cioè su come personalmente mi sento diviso dalla soddisfazione, perché Manchester City ovviamente è un valore per le coppe europee, quindi è una bellissima notizia il fatto che Manchester City giochi e possa giocare le coppe europee per chi ama il calcio. Però dal punto di vista della credibilità del sistema, dal punto di vista del peso dell'UEFA, dal punto di vista della certezza del diritto, invece questa decisione mi lascia abbastanza sorpreso ed è un precedente che a questo punto secondo me potrebbe anche tornare. Sì, quello che diceva Bold è assolutamente vero, cioè il peso politico, il peso mediatico, il peso economico del Manchester City, però allora, se fosse così rassegniamoci, no? No, più che rassegniamoci, vediamo di cambiare il sistema, perché io credo che credo che sia insomma antistorico, al di là delle vicende legate al Covid, eccetera, che non sia fisiologico. rinunciare a chi immette comunque tanti soldi in un sistema, nel circolo di un sistema, che di un però, sistema economico. Stabiliamo delle regole certe, altrimenti decidiamo una sanissima deregulation in cui ognuno fa come gli pare, ma che a quel punto diventa quasi più coerente, nel senso che se ci sono delle regole, queste regole devono essere fatte rispettare. Quindi il concetto è sempre quello di, l'abbiamo fatto mille volte scorso, di sport europeo, dove più sei ricco, più guadagni, più vinci, più prendi premi e più si allargano le distanze tra le grandi e le piccole, oppure se il concetto invece dell'equilibrio, della sostanziale parità dei punti di partenza fra i diversi club, fra le diverse franchigie, è un valore. E questo è il modello americano, che è un modello che attraverso tutta una serie di strumenti punta a questo equilibrio. Certo. E dove tu, se violi le norme sul salary cap, appunto, paghi una tassa salatissima, si chiama luxury tax, e che potrebbe essere un'idea. Cioè, tu hai tanti soldi, li vuoi spendere, bene, paghi una tassa sul lusso molto elevata, che va a vantaggio degli altri. Certo. Stefano, per chiudere. No, per chiudere cerco di essere sintetico, perché qui richiederebbe molti, un'ora di dibattito. Io credo che poi ci siano stati altri due o tre elementi, li riassumo rapidamente. Uno, si è dimostrata vincente la linea dei regali del City, che hanno puntato molto sulla fuga di notizie nella fase, diciamo, investigativa, cioè sul fatto che non ci sia stata correttezza da parte dell'UEFA, che siano state lasciar filtrare delle notizie. Questo sicuramente ha avuto un peso. L'altro peso è che tutto ciò è nato da Football Leaks, non ve lo dimenticate, dalle rivelazioni poi pubblicate da Der Spiegel, e sappiamo chi, quale sia la controversa situazione nei confronti di Football Leaks da parte dell'UEFA. E tra l'altro Rui Pinto, l'hacker portoghese che resta in carcere in Portogallo, ha iniziato a collaborare con la giustizia portoghese, probabilmente potrebbe anche non avere una pena molto leggera. Sicuramente è stato una figura con la quale l'UEFA ha lottato in questi anni. L'ultima cosa è che tutto questo materiale riguardava il periodo 2012-2016, e l'UEFA ha detto che, insomma, poi dopo 5 anni c'è la famosa prescrizione, quindi è stato pure difficile valutare fino in fondo le responsabilità, perché ripeto, il periodo antecedente al 2015 era abbastanza consistente. Quindi, insomma, ci sono state anche delle problematiche all'interno dell'inchiesta che hanno favorito questa sentenza. Dopodiché sono d'accordo con voi, le regole, se ci sono, vanno rispettate, altrimenti cambiamole, oppure trovo giusta la vostra linea, una patrimoniale nello sport, però sappiamo che anche nella vita comune i ricchi la patrimoniale non la vogliono pagare, ma questo è un altro discorso. Vogliono pagare, saranno problemi loro. Grazie Stefano, a presto. Grazie a voi. Ciao, buon lavoro. Allora, vuole pagare. No, ma ha ragione Stefano, cioè, bisogna capire da che parte si vuole stare. O si decide di stare da una parte nella quale ci sono delle regole precise nel nome di un equilibrio e di una parità o sostanziale equilibrio dei punti di partenza, e allora però le regole vanno fatte rispettare, o se no si decide la deregulation e va bene. Certo. E quindi poi alla fine io non ho una posizione netta al 100%, mi piace più la prima, perché mi piace l'equilibrio, e infatti mi piace lo sport americano come filosofia, non mi piace l'idea che chi più sei ricco, più vinci, più si allargano le distanze. Però dico pure che qua a livello europeo le distanze in realtà sono molto più strette, perché ci sono una serie di poli in giro per l'Europa che dominano, però ecco, insomma, si tratta di fare una scelta di sicuro una sconfitta per l'UEFA per mille motivi. Allora fermiamoci un attimo, perché dopo ho un paio di amici che sono parecchio risentiti con il modo in cui vengono principalmente arbitrate le partite del campionato italiano. Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Il rigore così, avete detto voi quanti ne sono stati dati? Non so, in tutte le partite contro tutte le squadre, quindi 50, io dico 50, sì. È una follia. C'è un'altra, 16-4 anni fa, ecco, c'è un'altra interpretazione tale in qualche, uguale in qualche altro campionato del mondo, no? Quasi banale che sia stato un rigore a chiudere la domenica, quello di ieri sera segnato da Kessié per il 2-2 del Milan a Napoli. Siamo a 158, un numero secondo me insopportabile in uno sport a basso punteggio. Non è questione di bandiere ma di spirito del gioco. I due amici di qui sopra, uno è qui davanti a me, Giuseppe Cruciani. Ciao Giuseppe. Ciao ragazzi. E l'altro è Massimo Mauro. Ciao Massimo. Ciao a tutti. Ciao Giuseppe. Ciao Massimo. Allora, 158 rigori in Italia, in Spagna non pochi, 142, falli di mano in Italia 50, in Spagna 44, possiamo stare lì a guardare i numeri, però credo che lo spirito del gioco non debba essere così di rigore, Giuseppe. C'è la forte tentazione, caro Carlo, di non guardare più le partite di calcio. Con grande dolore, io ho avuto sabato sera questa sensazione fortissima. Perché il problema non è la Juventus, certamente, non è i rigori dati alla Juve, ma ne possiamo elencare tantissimi. Io penso che Massimo sia della stessa opinione. Non è lo spirito del calcio. E quando una regola non si adegua allo spirito del calcio, ma è una regola meccanica fatta apposta per non dare alcun tipo di potere decisionale, di discrezionalità all'arbitro, allora questa cosa qui fa male al gioco del calcio. Io non c'è niente d'accordo. Da fare, è così, cioè, possiamo metterla come vogliamo, possiamo dire sì, va bene il regolamento, ma i regolamenti non sono, cioè, non sono la pietra filosofale, i regolamenti non possono nascere dal nulla, devono nascere da che cos'è il calcio, cioè, i regolamenti nascono per adeguarsi a quello che è il gioco del pallone. E siccome la discrezionalità alla fine c'è comunque, certo ce n'è di meno, ma è stata applicata anche quest'anno, allora io dico che questa roba qua andrebbe abolita. Intanto ha danneggiato diverse società, certo. Ma più che ha danneggiato diverse società, ha danneggiato lo spirito con cui si gioca a calcio, cioè ormai è tutto troppo affidato a questa casualità, i giocatori che puntano le mani, situazioni allucinanti, dai. D'accordo, no, al 99%, non vedo francamente danneggiati e favoriti perché non ho il compendio, mi pare che anche la Juve abbia avuto dei rigori con tanto per essere chiari, con il pallo di mano. Ma non è questione di chi li ha avuti o chi li ha dati. No, io sono d'accordo invece proprio, secondo me, quello che ha detto Gasperini l'altro giorno, che secondo me è stato perfetto, è chiaro che lui fosse un po' arrabbiato e un po' nervoso sicuramente, però lui ha riconosciuto che dal punto di vista del regolamento quei due rigori ci stanno, del secondo neanche a parlarne, il primo è un rigore che con quella che è la giurisprudenza del nostro calcio viene dato, quindi non è assolutamente uno scandalo, anzi è una decisione corretta, questa è la mia idea, sì, quindi non è un discorso di Juve o Lazio o Inter o Atalanta, almeno secondo me, e però ha ragionissima Giuseppe, cioè è un concetto legato, ma lo diciamo dall'inizio dell'anno, ne parliamo. Sentiamo il pensiero di Massimo. No, ma ragazzi, però dall'inizio dell'anno non avete accomunato questo? Massimo, no, non lo sento più, adesso ci ricolleghiamo. No, ma io sono d'accordo con quanto diceva Giuseppe, insomma, siamo tutti d'accordo qui, vediamo gli ascoltatori, però io credo che il principio, noi guardiamo gli sport americani, no? Il principio dovrebbe essere quello dell'acquisizione del vantaggio nel gioco, quindi della possibilità dell'arbitro di interpretare, cioè, e non di fare il notaio dell'applicazione delle regole. Il rigore, e sono sicuro che Massimo la pensa così, il rigore è una decisione, io sono ancora più estremista come Pierluigi sa su queste cose qua, cioè il rigore è una decisione molto grave, cioè una decisione molto importante nell'economia di una partita. Certo. Con i rigori si vincono i campionati del mondo, con i rigori si vincono, si perdono scudetti, eccetera eccetera. Ora va benissimo che nel calcio come è uno sport in cui la casualità ci può stare, però ecco, affidare il destino di campionati, il destino di società, il destino spesso anche di singoli giocatori o comunque il destino di stagioni intere a una roba che non appartiene al calcio, le braccia non si possono togliere, non si possono avere degli automi in campo, cioè delle monete. È tornato Massimo, questo è il punto fondamentale. Ha scritto una cosa interessante, Massimo. Ragazzi, io non posso dirla meglio di come l'avete detto voi, però il problema è la moviola in campo. Ma scusate, ma non l'avete capito che gli arbitri si sono allenati a sbagliare nei confronti della moviola? Ma il guardaline in una partita di calcio non può più alzare la bandierina neanche se è convinto del fuorigioco di 2 metri. comunque non alza la bandierina. I nostri guardalinee sono bravissimi, i nostri arbitri sono bravissimi. Però Massimo, guarda cosa funziona. E non fare guardaline. No, però lui dice tutta una conseguenza. Lui dice tutta sì, una conseguenza. Sì, no, ma l'ho capito, è interessante. Cioè. Bravissimi, molti altri, comunque, facciamo, Massimo, facciamo fatica a sentirti purtroppo, proviamo un'ultima volta a fare collegamento. Quindi certamente l'elevato numero di rigori è una conseguenza fisiologica dell'applicazione del VAR, ma su questo siamo tutti d'accordo, sul fatto che ha migliorato il gioco, però non puoi arrivare a questo numero spropositato di rigori in uno sport, ripeto, a basso punteggio fisiologicamente come il calcio. Ma ragazzi, adesso l'hai detto all'inizio di questo blocco, e secondo me questo è un tema fondamentale, ed è poi quello che dice Giuseppe, cioè il calcio di rigore ha un'incidenza che non è quella del tiro libero del basket, tanto per essere chiari, sì. O di un calcio di punizione nel rugby. Il calcio è uno sport a basso punteggio, no? Perché finiscono 0-0 che finiscono 1-0, quindi è chiaro che l'episodio pesa tantissimo. Io credo che adesso se ne parla molto perché Juve-Atalanta era una grande partita, è stata una grande partita, una partita importante per il campionato, e quindi ne parlavamo anche prima, Pier. Ma ne parlavamo anche prima. È chiaro che è più facile parlarne dopo una grande partita con un allenatore che fa uno sfogo, ripeto, secondo me uno sfogo giusto, perché non ha fatto uno sfogo sugli episodi, lo sa pure lui che sì, a termini di regolamento e di giurisprudenza quei rigori si danno. Però il vero tema è quello che dice ieri Marelli, cioè come se ne esce, perché non è che facciamo una puntata e decidiamo. Purtroppo che sia migliorativa, è un po' come il discorso di prima del fair play, cioè come se ne esce, passando dal fatto che siamo tutti d'accordo che questi rigori sono un po' troppi, come se ne esce? No, se ne esce ribaltando la regola sul fallo di mano e tornando alla questione della volontarietà e alla discrezionalità dell'arbitro sulla pericolosità dell'azione. Bravo, cioè, esatto. In qualche modo non puoi essere... Cioè, allora ragazzi, Muriel, è incredibile la cosa di Muriel. Cioè, la palla sta per uscire dall'area in direzione opposta rispetto alla porta. Può accadere che un giocatore, in particolare un attaccante, non abbia le mani legate dietro, perché nel 90% dei casi è così. La palla gli sbatte addosso, non c'è alcuna volontarietà, è il contrario dello spirito del gioco del calcio, quello perché che stanno non fatto. Si procura è nessun tipo di vantaggio, è esattamente il contrario. E parliamo, lo ribadisco, di un rigore netto, perché quello lì sì, è rigore netto. Se dici rigore netto lo vuoi dire quasi dicendo non è rigore netto, quella è una porcheria, non una porcheria dell'arbitro, non è calcio, quella è un'altra roba, cioè non è rigore netto secondo regole folli. Aspettate un attimo. Tutto, no, ma scusate, l'ho detto proprio per sottolineare il paradosso. Con le regole attuali è un rigore netto. Certo. Sono d'accordo con Giuseppe che è sicuramente contrario allo spirito del non gioco. Muriel non si procura nessun tipo di vantaggio con quello. Siamo riusciti a ripescare Massimo. Vediamo se riusciamo a finire posso, il discorso. Posso dire che questi vostri discorsi sono figli del figlio della tecnologia. E questo è il punto. Cioè gli arbitri sanno che c'è la moviola, sì, e quindi sono costretti ad arbitrare come arbitrano. Il guardialinee, ragazzi, non alza più la bandierina, neanche sui fuorigiochi di 2 metri, chiarissimi. Loro sono talmente bravi che riescono a vedere anche il fuorigioco. Cioè Massimo sta dicendo una cosa interessante, cioè praticamente, ragazzi, questa la tecnologia porta gli arbitri a ma non certo, arbitrare più, cioè a smettere di essere bravi, ragazzi, praticamente. Giuseppe, è così, anche perché nessun amante del calcio può pensare che un difensore difende davanti a Ronaldo, davanti a me, davanti a chi non so chi, con le mani dietro la schiena. Ma che è? Come se uno inizia a picchiare in un incontro di pugilato, inizia a picchiare dopo 2 round e gli dà 2 round di vantaggio. No, ma io sono figuriamoci. Ma siamo tutti d'accordo. Voglio dire, resta da capire, adesso non so se Massimo faccia riferimento ai burocrati della FIFA e quelli che decidono le regole. Resta da capire come saranno come 2 commercialisti e 2 avvocati. Quindi che si fa, Massimo? Non lo so. No, ci vuole una petizione da parte di allenatori e giocatori per cambiare le regole. Ragazzi, siamo rimasti alla petizione. Però è giusto, secondo me è giusto, nel senso che ovviamente dalla prossima stagione... Scompriamo il campo da fesserie, la Juventus ha vinto ancora. Quindi scompriamo il campo dalle fesserie, la Juventus... dirò. Non è questo, bisogna tornare all'arbitro, è l'unica persona in campo che può capire la volontarietà, perché è sudato, perché c'è il budget di 150, perché è bravo, perché si allena. Però per Massimo questo la può anche andare a rivedere per vedere, cioè per capire la volontarietà, non è un errore andarla a rivedere. No Giuseppe, la moviola non ti darà mai quello che è successo 2 secondi prima in campo, non lo potrai mai capire. Lo può capire solo chi è a un metro. Ma quando non è un metro, quello è il problema. Io non sono così drastico come Massimo, che da sempre ha avuto una posizione molto, cioè, molto dura nei confronti del VAR. Secondo me, con qualche anticipando quello che sarebbe stato il problema che si presenta sotto i nostri occhi adesso, in certi casi. Però quello che è successo ieri, e poi nelle partite eclatanti, in realtà servono anche a questo, Pier. Cioè, quando succede in una partita eclatante, succede in una partita eclatante, ed effettivamente io ho avuto la voglia al secondo rigore della Juventus, ma non perché avessi qualcosa contro la Juventus, figuriamoci, sai benissimo che non è così. Al secondo rigore, ho avuto proprio la sensazione di dire: vabbè, ma che le vediamo a fare le partite quando tutto è appeso, perché non c'è nemmeno un elemento di spettacolarità, non c'è nemmeno un elemento, sai, c'è quella cosa lì a sorpresa che può venire, no, ti provoca solo rabbia una cosa di questo tipo. Dunque tu hai una squadra che ha giocato un calcio meraviglioso, non dico per 90 minuti, per lunghi tratti, poi ci può stare che tu pareggi, uh-huh, perché quelli combinano un'azione, certo, un'azione, certo, alla Juventus, un colpo del campione, ma certo, questa roba qui non ci può stare, cioè questa roba qui. L'Atalanta ha pareggiato la partita per un pallone carambolato su un braccio. Sì. E per un'ingenuità di Muriel, cioè, e ripeto, 2 rigori che c'erano, si danno, l'ho detto in telecronaca e lo ribadisco proprio per sottolineare il paradosso. Ma io, guarda, sono perfettamente d'accordo, credo che se gli allenatori, i giocatori condividono questo tipo di spirito, fanno bene a fare qualcosa, perché sicuramente si sta perdendo il senso, no, questo però, non c'è dubbio. Però il VAR la penso più come Crociani che come Massimo Mauro, sì. Cioè, il VAR è uno strumento utile. Occhio agli errori. Però è vero quanto ha detto Pierluigi, è chiaro che indietro di lì non puoi tornare, però Massimo ha detto una cosa interessante, che è quella che sottolineava Giuseppe, e cioè ti toglie all'arbitro quasi la sua bravura, l'arbitro è ridotto ad una specie di notaio di quello che succede, quindi non può far altro che così, non ha spazio per l'interpretazione. Ma in realtà no, è che alcune volte interpreta, altre volte non interpreta, a volte interpreta bene, altre purtroppo male. È così, guarda due episodi recenti, no? Due episodi recenti che sono contraddittori però con questa filosofia di adesso, che non è una filosofia ma è un'applicazione burocratica di una regola. Guarda, diciamo, il braccio alzato di Falco, adesso non è perché la Lazio naturalmente, il Lecce-Lazio, e il mani di Mancini della Roma, e il braccio di Mancini in Roma-Parma a 10 minuti dalla fine, che non è stato dato il rigore, pare che quell'arbitro non arbitrerà più fino alla fine della stagione. Anche lì sono due cose che tu vai a rivedere. Per me non sono rigori nessuno dei due, io non darei rigore in nessuno dei due casi, né alla Lazio contro il Lecce, uh-huh, né al Parma contro la Roma. Però se vai a vedere quel braccio là di Mancini e il gomito di quell'altro che si alza, secondo il regolamento quella roba lì sono 2 rigori, eppure in quel caso non è stato dato. No, adesso leggo che Collina sta pensando di rivedere la regola, e penso che abbia ragione uno dei tuoi abituali compagni di banco, no? Guidolin, che dice che vanno puniti quei falli che interrompono comunque azioni pericolose, che siano dolose o preterintenzionali, facciamo, però... una partita non può essere decisa da un tocco come quello di Muriel, che non porta all'attaccante, in quel caso a chi sta difendendo, alcun tipo di vantaggio. Però è anche vero che è come inutile modifichi, dire se quella palla passa potrebbe andare un attaccante, c'è sempre lì la cosa. Però il problema è nello specifico proprio no. No, nel caso di Muriel no. È vero, cioè, guardiamola in un senso più largo. Il calcio negli ultimi anni ha incontrato la tecnologia, ha incontrato il VAR, e quindi è uno scontro, non è un incontro, è uno scontro. Adesso bisogna trovare una sintesi. Secondo me questa regola qui sul fallo di mano è proprio una regola, questa interpretazione, ripeto, della regola è assolutamente sbagliata e sta diventando in certi momenti ridicola, perché riduce il calcio veramente a degli episodi fortuiti. Mi ricordo in una delle prime puntate di Tiki-Taka di quest'anno, non mi ricordo qual era la partita, forse la Lecce-Juve, ma non mi ricordo, sì, Lecce-Juve. Che a un certo punto si diceva, ma uno con i piedi buoni a questo punto quasi tira il braccio, mirare, sì, tira sì. Il braccio appena vede il braccio un po' largo, e questo è quello che può succedere, e ripeto, succede, e legittimamente poi viene dato il rigore, quindi lo spirito del gioco viene tradito. Si devono mettere a trovare una sintesi, su questo non c'è alcun dubbio, e non c'è alcun dubbio che il fatto che questo episodio sia avvenuto in una partita così importante e Gasperini abbia fatto, secondo me giustamente, un dibattito sulla filosofia del gioco e non sull'episodio in sé, quindi non ha fatto la polemica lamentandosi per l'Atalanta, ma ha fatto un discorso più complessivo, secondo me è un servizio a tutti, perché, no, ma io, infatti, perché bisogna aprire un ragionamento su questo e lo si sta aprendo. Il discorso di Gasperini non è discutibile nella maniera più assoluta. Secondo me è troppo tardi, purtroppo è troppo tardi. Non è vero che in tutti i casi toglie la discrezionalità all'arbitro. No. Caicedo, sul quale si è discusso, ci si è divisi, l'arbitro alla fine ha deciso, ha detto ho visto io, e si vedeva che urlava ho visto io all'arbitro, sì, di VAR. In altre circostanze il VAR forse ha più peso, anche qui, no? Il peso del VAR rispetto al peso dell'arbitro. Insomma, ci sono... il tema del VAR è molto semplice, lo diciamo dal giorno zero: il VAR aumenta l'aspettativa. Il VAR, per quanto noi possiamo ricordare che c'è un protocollo, che si può intervenire soltanto se c'è il grave ed evidente errore, tutte queste cose burocratiche, il tifoso da casa con la moviola, con le immagini, ha un'aspettativa diversa. Io ho un sospetto, il mio sospetto è che quando anche se in Inghilterra viene applicato meno, quando fu deciso, diciamo, di punire più severamente i falli di mano secondo una regola burocratica, non fu deciso in Italia naturalmente, ma fu deciso in altre sfere, sì, e ci fosse una pressione perché le partite di calcio avessero più gol, più spettacolo, come se questa cosa qui portasse spettacolo. Questa cosa qui non porta alcun tipo di spettacolarità, non porta alcun tipo di vantaggio dal punto di vista del pubblico, cioè partite con più gol eccetera, cioè, è vero che ci sono stati più gol probabilmente conseguenze dei rigori, però questa cosa qui non porta adrenalina, cioè non porta, solo incazzatura, cioè porta, porta incazzatura e porta disamore, cioè perché il calcio che no, cioè non, beh, ma quanti ne hai sentiti? È bello oggi vincere al 90esimo per un rigore, non è male vincere al 90esimo per un rigore, ma non così, però, cioè non così. È bello vincere al 90esimo con un bel rigore, con uno sgambetto, con una cosa. Chi è che non sogna di vincere al 90esimo una partita importante sul rigore? Ma un rigore che significa un pericolo vero, un rigore che abbia un minimo di sostanza e di serietà, cioè. Giuseppe e Carlo lo sanno, è una conversazione condivisa nel gruppo di telecronisti Rai, Mediaset, Sky, DAZN, e il telecronista che è il secondo a parlare dopo l'arbitro è quello che si augura di più che la partita non abbia episodi arbitrali, e questa cosa qualche anno fa onestamente non era così forte, cioè oggi la variabilità legata all'arbitraggio, al VAR, al tipo di decisioni, sì, alla complessità del regolamento eccessivo. Ve lo dico per esperienza personale, ma credo di parlare veramente a nome di tutti i colleghi che mi capita di sentire, è veramente aumentata e non fa bene al gioco, secondo me non fa bene al gioco, perché poi alla fine invece è bello se il risultato ha una sua rispondenza e non è legato a degli accidenti del destino, sì, così, sì, così clamorosi e casuali in molti casi. Ragazzi, ci aggiorniamo qua. Ciao Giuseppe, ciao, grazie. Ciao. Pier, stai lì tu, che sentiamo la borsa e poi proseguiamo le nostre discussioni. Prima non andava bene la discrezionalità. Modifichiamo. Adesso non va bene il regolamento. Modifichiamo, rivogliamo la discrezionalità. Mettetevi il cervello al fresco. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24 800 24 00 24 Mister Gente e Pierpardo vi aspettano. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Tutti convocati. Bottas che prova a tenere lì la posizione, wow, alla contatto quarta delle due Ferrari, incredibile, l'ala posteriore di Vettel è danneggiata, la sua gara è finita. Box per Charles Leclerc, che disastro, sarà una settimana bollente. Certo, abbiamo visto arrivare qui al ring e la prima cosa che ha voluto fare è aspettare che Sebastian finisse di fare le sue interviste per dirgli che cosa? per scusarmi. Quando uno sbaglia io sono sempre onesto, oggi io non sono stato assolutamente bravo, non trovo altre parole, non sono, sono deluso di me e basta così. Non si tratta di fare accuse, si tratta di lavorare in modo molto unito a Maranello. Può essere non per forza una parte sola della vettura, potrebbe essere anche un problema di metodologia, di progetto alla base, di concetto, quindi non è una situazione banale. La prima cosa da fare è capire. Io credo che il rigore più netto e indiscutibile della domenica sia stato quello commesso da Carletto Leclerc, caro Pierluigi, l'avrai visto, no? Sì, ho visto. Giovanni Bruno, buongiorno, ciao direttore. Ciao, buongiorno Carlo. Ciao Pier. Ciao Giovanni. No, non serviva mica al VAR lì, eh? Giovanni. No, non serviva il VAR. No, serve altro purtroppo. Si è infilato, ha messo l'errore, si è infilato. La realtà è che erano tutti nervosi. La realtà è che partire dietro fa male, la realtà che la botta di fortuna, chiamiamola così, del precedente Gran Premio, determinato solo dalla capacità e dalla bravura indubbia di Leclerc, lo ha invece tradito adesso, proprio per questa sua giusta voglia di cercare di andare un po' più avanti, che la macchina non c'è. Sì, appunto, guarda, ieri parlavamo con Umberto Zappelloni, molto cinico e saggio. Ha detto meglio così, non ho dubbi. Quasi meglio così, perché al traguardo sarebbe la crisi sarebbe stata ancora più imbarazzante. No, è giustissimo. È giusto, ed è giusto il fatto, lo dico ovviamente da appassionato e non da tecnico, però mi sembra abbastanza chiara da parte di Leclerc la necessità, visto il talento che ha, vista la giovinezza che ha, vista la voglia che ha di provare a inventarsi qualcosa di miracoloso, però questa voglia di fare il capolavoro può portare a dei capolavori come nella prima gara, ma può portare anche a degli errori. Insomma, se corri sempre sul tuo limite, ieri ha sbagliato clamorosamente, infatti il vero tema è capire se questa macchina è la macchina giusta per lui, per poter crescere, perché insomma i giovani talentuosi devono crescere, questo vale nella Formula 1, ma vale in qualsiasi sport. Con l'affrontatezza, con ovviamente il loro talento, il loro carisma, ma anche in una sorta di comfort zone. Non devo scendere in campo ogni volta per dimostrare di essere da pallone d'oro, perché se scendi in campo ogni volta per dimostrare che sei da pallone d'oro, poi sbagli e rischi veramente di bruciarti. Poi a 20 anni magari un'entrata come quella di ieri la puoi perdonare a medio termine, anche perché Leclerc ha un sacco di responsabilità adesso sulle spalle. Però c'è anche un altro punto, noi siamo abituati a parlare di calcio, Giovanni, se un allenatore dicesse dopo una sconfitta come questa, quello che ha detto Binotto sarebbe come minimo in discussione. Sì, ma la realtà è che tu sai benissimo che non è che in Ferrari le cose passano così, perché hanno pagato nel passato, se tu vai a vedere... Nel passato ci sono state delle cose, se la macchina non va, le scelte non vanno, chi coordina paga. Quello che, ripeto, a me mi rende quasi, diciamo, nervoso da un punto di vista, perché chiaramente, come diceva Pierre, è giustissimo, siamo tutti quanti, come anche te, appassionati di Formula 1, e indubbiamente c'è un emblema della Formula 1 che per noi si chiama Ferrari. Ma è indubbio che con gli ascolti, è indubbio che quando va bene... siamo tutti contenti, cioè è fondamentale. Vederla soffrire in questa maniera, sono anni che abbiamo perso delle battaglie, ora stiamo perdendo totalmente la guerra, perché la realtà, quei due signori là davanti se la cantano e se la suonano, non è cambiato nulla, è cambiato solo Hamilton, che è più consapevole politicamente, passami il termine, e Bottas magari è più consapevole che è bravo. Però attenzione, perché io ieri ho visto una cosa meravigliosa nel Verstappen. E quel Verstappen, quando parlava Pierre del fuoriclasse, no? Cioè Leclerc in dubbio è un fuoriclasse. Verstappen è un parecchio di più. Però adesso non esaltiamo pure gli altri, perché Leclerc è un ottimo pilota, ma deve dimostrare ancora tantissimo. Ieri abbiamo esaltato Norris. Ma si è trovato davanti una macchina ferma e ha avuto la botta, passano in termine, stavolta di culo, che uno ha sbagliato davanti a lui. eccolo lì, fenomeno Norris, fermi. Facciamo presto, sai che stiamo cercando dei fenomeni. La realtà poi, io devo analizzare. Beh, sai, il quando, Ferrari, quando ci sono delle egemonie così interminabili, no? Questi imperi su cui non tramonta mai il sole, cioè ti aggrappi a qualunque cosa, come qualunque uno cosa. Sorpassa un ghiro lungo la strada, dici che è il prossimo stile di mossa. Ma poi la ciccia c'è, perché per lo sappiamo, lo conosciamo ormai da tempo. Ne conosciamo talento e limiti, anche lì siamo sempre sulla lama del rasoio, no? Siamo sempre sul filo fra genialità e follia. Norris sicuramente, sono storie sicuramente, da questo punto di vista sono tre storie diverse, ma che hanno in comune un elemento di interesse. Ripeto, la ciccia c'è, e poi è anche vero quello che dici tu, cioè che in anni di egemonia e di dittatura Mercedes, dittatura di Hamilton, ti appassioni anche a qualsiasi segnale che ti possa dare un po' di novità, ecco, quindi da questo punto di vista. Allora, Hamilton comunque, ragazzi, io poi magari domani ne parlate nel Bar Tour, io trovo che sia addirittura sottovalutato, nel senso che comunque al di là della consapevolezza politica e del coraggio che ha dimostrato in questi mesi con le sue battaglie, ma insomma continua a essere un pilota di una regolarità e di un talento incredibile, al netto di una macchina superiore. Il tempo ci darà l'esatta dimensione di Hamilton, che secondo me è tantissimissima, esatto, roba. Sono d'accordo, Carlo, c'è una questione molto importante. Noi apprezzeremo molto di più Hamilton quando smetterà. È vero, è certo, è così. Perché ora in questo momento noi stiamo vedendo, diciamo, quello che va male in Ferrari. Abbiamo visto quello che era andato bene, cioè, ripeto, da italiani, chiaramente, se tu stai in questo momento, sei londinese, compri un giornale londinese. Lo so, Giovanni, però anche gli inglesi vorrebbero vederlo vincere combattendo un paragone ardito, ma mi sa che abbiamo il traffico. Abbiamo il traffico, fallo subito però dopo. Lo faccio dopo, attenzione. C'è Pinotto nel traffico, c'è Pinotto. Ho come l'impressione che la Ferrari ci sia un po' di disaffezione. Della serie, timbro il cartellino la mattina, faccio il mio, timbro la sera e poi andiamo a farci due spaghi. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, della serie Pierluigi Pardo e il paragone ardito. Sì, adesso ho un'aspettativa addosso, una adrenalina. No, il paragone, da parte delle battute, il paragone ardito secondo me è con la Juve di questi anni, con la Juve di Allegri ed Hamilton. Cioè, c'è un dominio tale, talmente enorme, almeno in Italia ovviamente, lasciamo perdere il discorso Champions League, c'è stato negli anni della Juve di Allegri, che è un po' come il discorso di Hamilton. Cioè, vinci e finisci quasi in certi momenti per abituarti alla vittoria come una sorta di condizione naturale, certo. Però dietro i meriti ci sono, quindi sono d'accordo con Giovanni, poi conteremo i trionfi, conteremo le vittorie e faremo una scala e capiremo che cosa ha rappresentato Hamilton nella squadra. Gli daremo il suo posto nell'Olimpico, ma è tutt'altro che ardito, è esattamente così. Piuttosto, andato? Benissimo, andare? Fantastico, andare. Amico mio. No, volevo farlo io invece un paragone molto più ardito. Pensavo che la storia del doping, il doping di Stato, quella cosa lì appartenesse ai libri di storia e che ci raccontano gli anni 70, la DDR, eccetera, poi apri il Corriere della Sera di oggi oppure dei giorni scorsi e ti accorgi che gli anni 70 sono ancora presenti, leggendo questa vicenda pazzesca dell'Agenzia Governativa Britannica per lo Sport Olimpico, che tra il 2011 e il 2012 ha indotto, diciamo, forse sono generoso, 91 atleti di altissimo livello ad assumere un farmaco non in commercio sperimentale perché forse migliorava le prestazioni, provocava dei danni pazzeschi, effetti collaterali pazzeschi, non si sa nemmeno se fosse così utile, però hanno sottoscritto questo contratto, se volete prendete sta roba, però decliniamo ogni responsabilità. Vabbè, Giovanni, sembra usciamo dagli anni 70 di nuovo, un'altra volta. Sì. Drammaticamente sì, soltanto che soltanto c'è una grande differenza, secondo me, che negli anni 70 c'era dietro una realtà di far emergere in una maniera fortissima anche un sistema politico. Perché era la Deutsche Democratic Republik che agiva in una maniera assolutamente tecnica, super tecnica, e sapeva perfettamente cosa faceva. Qui mi sembra una cosa un po' diversa, cioè assumete questo, non sappiamo nulla, noi ne sappiamo, provate. Sì, ma te lo dice l'agenzia governativa del tuo paese. Certo, però attenzione, perché qua c'è un concetto importante, cioè la voglia di assolutamente rimettere a posto un sistema che era decaduto. Cioè la parte inglese forte con il concetto dell'Olimpiade doveva ritornare a far sventolare l'Union Jack dove aveva raggiunto dei livelli importanti. Quindi, e questo... e non ti sembra che ci sia un po' la stessa logica sottesa? Assolutamente sì. Purtroppo sì, nel senso, cioè io voglio arrivare lì, voglio ritornare leader, perché non dimenticare, Carlo, che l'Inghilterra, la Gran Bretagna era scesa a dei livelli micidiali, andava a raggranellare la medaglietta d'oro a certe Olimpiadi. Poi piano piano, con lo sviluppo che c'è stato, con il concetto dell'Olimpiade di Londra 2012, voleva ritornare a un sistema. Fatto sta che proprio con l'Olimpiade precedente a Londra 2012 si è arrivato al vero cambio. Sì, certo. Però e a quel punto, per mantenersi a quel livello, è come il doping del ciclista, purtroppo. Fammi ritornare anche a quello. Perché se tu scopri che assumendo un certo tipo di sostanze riesci ad arrivare a determinati livelli in cui tutto diventa meglio dal punto di vista finanziario, dal punto di vista dei risultati, dal punto di vista contrattuale, tu a quel punto te ne fotti. Sì, ok, vado avanti finché non mi beccano. Sì, no, ma è di sicuro così. È che volevo sentire Pierluigi su questo punto. La cosa agghiacciante è che un paese per tornare a massimi livelli, cioè si usa lo sport anche in questo caso come vetrina di un paese, in maniera però molto perversa, Pier. Sì, infatti, perché usare lo sport come vetrina è di per sé una cosa molto bella, e per noi che amiamo lo sport è una cosa che ci lusinga molto. Farlo ovviamente contravvenendo alle regole e all'onestà è qualcosa di completamente diverso. No, mentre parlava Giovanni mi veniva in mente, io ho fatto l'Erasmus a Londra nel 95-96, mi ricordo, a un certo punto un professore, parlando delle varie etichette, dei vari paesi, disse a proposito degli inglesi, sportsmen, grandi sportivi. Io e non solo io, si era abbastanza gomito, forse che quello lì era un momento in cui non vincevano molto a livello di Olimpiadi, ma insomma hanno avuto delle fasi sicuramente molto negative, no? Soprattutto per la importanza straordinaria che questo paese ha sempre avuto dal punto di vista culturale, dal punto di vista anche imperialistico, insomma, senza addentrarci in discorsi più grandi di noi, però insomma, sicuramente c'è stato un momento in cui la corrispondenza dei risultati sportivi non è stata all'altezza della storia, della tradizione, quindi anche dell'autostima che i britannici avevano di sicuro. Di sicuro, però non per questo devi utilizzare, devi pensare, anche soltanto pensare di utilizzare questo mezzo per tornare lì. Grazie ragazzi, grazie direttore, a presto. Ciao a tutti. Grazie anche a Filippo Aureggi, a Danilo Di Trani, Claudia Schiattone, Gianmarco Ferronato. Ci sentiamo domani alle 2, ciao. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani, enjoy. Saluti. Martina e oltre mezzo milione di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.